Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Esiste una giusta distanza che un uomo e una donna devono mantenere nel momento in cui sono una coppia o nel momento in cui sono sposati, quindi si trovano a vivere un matrimonio per far sì che questo matrimonio, questa relazione possa andare avanti? Questa è una delle domande che sorgono leggendo il romanzo di Sara Rattaro, La giusta distanza, guarda caso appunto è anche nel titolo, pubblicato da Sperling e Kupfer. Vi ricordo anche altri romanzi di Sara Rattaro, per esempio Niente è come te, Splendi più che puoi, L'amore addosso, e ora appunto questo La giusta distanza, in cui Sara Rattaro comunque torna ad analizzare i sentimenti, insomma, delle persone, degli uomini e delle donne, e le relazioni che si possono creare fra le persone. Tutto inizia con una scena, insomma, anche abbastanza forte, perché c'è uno dei due protagonisti, Luca, che si trova su un aereo che sta per effettuare un atterraggio di emergenza, ma di fatto, insomma, non c'è un classico vuoto d'aria, cioè sta proprio quasi precipitando l'aereo, e quindi si trova a vivere questa esperienza molto forte. Atterra finalmente questo aereo e lui si trova a passare una notte con una donna, ma non vi diciamo nient'altro. Luca è sposato con Aurora e tutto il romanzo è sostanzialmente il racconto del momento in cui loro si sono incontrati e di come si è sviluppata la loro relazione sentimentale, poi il matrimonio e poi. Allora Sara, da che cosa è nata l'idea di questo romanzo La giusta distanza? La giusta distanza nasce da questa idea di una situazione abbastanza drammatica. Se sei su un aereo e pensi che possa succedere qualcosa di difficile da accettare, di drammatico in realtà, pensi alla vita. E Luca è su questo aereo, ci sono pochissimi minuti e la sua vita passa davanti, e forse potrebbe anche pensare a che cosa è successo fino adesso, perché sono su quell'aereo e sto scappando dal mio matrimonio, perché sto andando dall'altra parte dell'Europa per accettare un posto di lavoro, forse dovrei tornare indietro. Ma è tutto un attimo, un tutto susseguirsi di emozioni, perché la verità è che quello da cui forse sta scappando è un matrimonio di 20 anni. E la domanda che io ho voluto, a cui ho voluto, come dire, dare una risposta senza mai riuscirci, perché nei romanzi non ci sono mai risposte, ma ci sono sempre solo altre domande, è: ma come facevano i nostri nonni, i nostri genitori a stare insieme così tanto tempo, mentre noi siamo una generazione sempre in partenza? Ecco, perché un uomo di 50 anni può decidere, e forse giustamente, perché i piani B esistono, perché sei ancora abbastanza giovane per meritartela una nuova vita, di andartene in quel modo, perché invece un uomo di 50 anni può decidere di tornare indietro, di tentare di salvarlo questo matrimonio? Non lo so. E insomma, è tutto un romanzo sul restare o andar via. Potrebbe essere anche intitolato La storia di un matrimonio, La storia di una relazione sentimentale, insomma, come spesso accade appunto nella narrativa. Questo è un romanzo raccontato a due voci: da una parte c'è il punto di vista di Luca, dall'altro c'è il punto di vista di Aurora, che è appunto la moglie di Luca. Loro si conoscono in un momento della vita molto delicato per Aurora, perché la mamma si è ammalata, lei è ancora giovane, giovanissima, va ancora a scuola, e da subito inizia questa relazione che però tu non descrivi come proprio un colpo di fulmine. Fin dall'inizio, fin dalla giovane età dei due protagonisti, è comunque una relazione basata sul costruire, sul passo dopo passo, sull'accoglienza e sul supporto che soprattutto Luca in questa prima fase dà ad Aurora. Assolutamente sì, perché quello che volevo raccontare è l'educazione sentimentale, che è qualcosa che credo che la mia generazione manchi, ma probabilmente manca a tutte le generazioni, ma noi siamo una generazione che si è esposta di più, è stata esposta di più. Io li chiamo, siamo i diseducati sentimentali, perché mi ricordo che anche nella mia famiglia, che è un po' la famiglia del mulino bianco, no? Quindi insomma, i miei genitori hanno superato i 50 anni di matrimonio, ma quando noi ci sedevamo intorno alla tavola, che era un po' il rito di famiglia, di fatto si parlava molto, ma non si parlava mai di sentimenti, si parlava d'altro, si parlava di quello che succedeva nel mondo. C'è un certo molto, pudore. Molto pudore, ma questo grandissimo pudore così educato in realtà ha mandato nel mondo mondo dei figli diseducati sentimentalmente. Quindi noi di fronte ai grandi dolori o ai grandi o alle grandi emozioni della vita siamo un po' sprovveduti e facciamo dei danni, facciamo dei disastri, no? Io una cosa che penso è che se io entrassi in una casa di qualcuno e rompessi qualcosa di valore o sentimentale o economico, mi prostrerei di scuse, tenterei di rincollare i pezzi, farei di tutto per salvare, mi vergognerei da morire. Se entri in casa di qualcuno e gli spezzi il cuore, questa cosa non accade. Non chiediamo scusa. Non chiediamo scusa, raramente chiediamo scusa, anzi di solito navighiamo in un tentativo di cercare di non essere beccati, cercare di sottrarci, no? Di scappare, di non essere visti. E questo fa parte del nostro DNA generazionale, no? Ma così erano forse così anche i nostri genitori. Ma i nostri genitori non si sono esposti in tutto questo, perché davvero il loro matrimonio in qualche modo ai 50 anni ci sono arrivati. Ecco. E questo mi fa pensare ad una frase che tu hai scritto nel romanzo. È un momento in cui Aurora parla con suo padre. Suo padre è uno che scappa, è uno che va via, è uno che ha abbandonato la moglie e la figlia quando lei era ancora una ragazzina. Insomma, è un uomo appunto che scappa. Eppure dice una grandissima verità a un certo punto. Perché dice ad Aurora: vedi Aurora, quello che non ci dicono è che le persone, o meglio quelle di cui ci innamoriamo, muoiono. Non parlo della morte fisica, attenzione. Tu conosci una persona che a un certo punto smetterà di esistere. Nessuno di noi può rimanere il giovane sorridente che aveva voglia di fare l'amore in qualunque posto e che era capace di ridere anche tutta la notte fregandosene del mal di testa che avrebbe avuto il giorno dopo al lavoro. La verità è che tutti noi, però, pensiamo di essere solo dei derubati e mai dei ladri. Quindi non chiediamo scusa. Noi non chiediamo scusa e ci in realtà inalberiamo e arrabbiamo moltissimo nei confronti di chi non ci chiede scusa, no? Cioè c'è veramente una sorta di punto di vista sempre un po' lo stesso, è sempre un po' il nostro, un po' egoistico se vogliamo. E questa è un po' tutta questa storia. Luca e Aurora ci provano. Io penso che il matrimonio, comunque le relazioni che durano, come quelle davvero del passato, ma quelle di oggi, e 20 anni sono davvero un lungo tempo per una relazione contemporanea, sono un po' come la corda tesa, no? Mi viene in mente la corda tesa dei panni tra i due palazzi, no? Non sarà mai tesa in tutti i punti nello stesso modo. Avrà delle convessità, delle concavità probabilmente, dei momenti in cui l'aria interviene e butta tutto all'aria, e attraversarla pensando che sia tesa e fidandoci di quella corda è un grandissimo errore. Dobbiamo calibrare i pesi e quindi la distanza, no? La distanza, perché la distanza è un concetto centrale in questo romanzo, anche perché Aurora insegna matematica, si è laureata in matematica, è una donna che tende un po' a rappresentare le cose anche attraverso i numeri, e il concetto di distanza, di rette che si possono incrociare o che sono parallele, insomma sono concetti che tornano spesso. Insomma, la distanza, ora non voglio fare troppo spoiler, però è sostanzialmente l'elemento poi fondamentale di questo romanzo ed è anche l'ultima frase. È necessaria una distanza fra le persone. Assolutamente sì, è che dobbiamo smettere di pensare che la parola distanza sia una questione negativa. La matematica lo dice chiaramente, la distanza matematica è sempre positiva, non esisterà mai un valore in meno davanti a un concetto di distanza. Due punti, per quanto vicini, sono comunque distanti. Se noi cominciamo a ragionare in questo modo, allora incominciamo a capire che quella distanza potrebbe salvarci, perché vedere le cose troppo da vicino non ci permette di vederne la grandezza e l'interezza, ma da lontano invece non ci permette di vedere i particolari. E ovviamente però la dobbiamo trovare ognuno a modo suo e ognuno in tutti i rapporti, perché non è solo questione di rapporto sentimentale, ma anche il rapporto lavorativo, il rapporto affettivo in generale, i rapporti in famiglia, perché per esempio in questo romanzo tu analizzi anche il rapporto che Aurora ha con la madre, sono legatissime, lei però purtroppo la mamma muore quando lei è giovanissima, la distanza con il padre perché il padre l'abbandona, la distanza con Luca perché insomma è vero che iniziano questa storia da giovani, però lei a un certo punto andrà a Londra, avrà un'altra relazione, non diciamo troppo, però a un certo punto tornerà in Italia, e Luca è lì pronto ad accoglierla, disposto ad accorciare nuovamente quella distanza. Luca è uno di quelli che resta. Luca è uno che cura, che ci prova a curare, e credo che questo sia un buon modo di essere uomo, in realtà anche di essere donna, no? Cioè il fatto che dare per scontato che le cose debbano essere giuste solo perché funzionano a modo nostro, questo è un grandissimo errore. Le persone sbagliano, sbagliamo tutti, il tradimento è una cosa ovviamente difficilissima da accettare e da digerire, da superare, quindi per carità il perdono è qualcosa qualcosa di particolarmente divino, ma se non lo mettiamo, come dire, in conto nell'inizio di una relazione, nel mentre di una relazione, facciamo un grandissimo sbaglio. A proposito di perdono, c'è una frase che tu attribuisci a Luca: la verità era che per poter esprimere tutto quello che provavo non avrei mai trovato parole a sufficienza, mentre da lei mi aspettavo un vocabolo solo: perdonami. Ma non lo disse mai. Esatto. Ma questo fa parte del pudore dei sentimenti o fa parte dell'incapacità che abbiamo a volte di ammettere appunto i nostri sbagli? Credo che siano due cose un po' collegate: essere cresciuti con delle educazioni particolarmente ricche di pudore, di tabù, se vogliamo, sentimentale, a volte ci ha reso davvero incapaci di chiedere perdono, di chiedere scusa, mentre è un grande senso di onestà e soprattutto una grande ammissione della persona che vuoi essere. Io credo che non possiamo, come dire, in qualche modo gestire tutto quello che ci accade, però possiamo gestire il modo in cui assorbiamo quello che ci accade. Cioè, io forse non posso impedirmi di innamorarmi di qualcun altro e di farti del male, però forse posso cercare di essere una persona che porta e nutre per te un grande rispetto e soprattutto non smette di volerti bene. Luca è un uomo che ha un grande concetto di cura, perché ce l'ha sempre nei confronti di Aurora durante tutta la loro relazione. C'è un altro personaggio maschile che ha un grande concetto di cura e che appare poco, ma mi è piaciuto molto. È Giulio, l'uomo che per un breve periodo accompagna la vita della mamma di Aurora. Anche lui, almeno all'inizio come lo descrivi, è un uomo di quelli che curano. In questo romanzo sembra più che gli uomini si prendano cura delle donne che non viceversa. Ma perché io ci credo? Credo che gli uomini in realtà siano molto, molto belli, se vogliono esserlo, se sanno essere prima di tutto delle brave persone, poi possono essere dei grandi uomini. Cura anche Giulio cura facendo i pancake, cura tenendo la voce bassa, no? Con le frasi di conforto, cura perché capisce di non essere perfetto e vuole semplicemente abbracciarti, e soprattutto lui supera un grande amore a cui sopravvive, che è un altro grande concetto. Gli amori non finiscono solo perché le persone se ne vanno, perché noi decidiamo di andarcene, le persone a volte se ne vanno anche fisicamente perché muoiono, e lui continuerà ad amare la mamma di Aurora, nonostante ovviamente abbia tutto il diritto di rifarsi una vita, ma resterà un po' legato, perché quel posto la mamma di Aurora in qualche modo non lo prenderà mai nessuno, mentre noi possiamo sostituire altre persone, possiamo permettere che altre persone sostituiscano le nostre. Un amore che se ne va perché la persona muore, rimane un posto ancora caldo, vuoto ma ancora caldo, che emana calore soprattutto, e chi arriva dopo si siede vicino, ma di quel calore avrà veramente il beneficio. Grazie a Sara Rattaro, ora in libreria con La giusta distanza, pubblicato da Sperling e Kupfer. Grazie a voi. Grazie Sara. Grazie a te. Abbiamo detto, questo è un romanzo che racconta la storia di una relazione sentimentale, di un matrimonio, ma anche di tante altre relazioni, e che possiamo forse racchiudere con la frase finale del romanzo, che però vi assicuro non fa spoiler, e che vi leggo: ogni tipo di relazione, non importa la sua natura, ha sempre comunque bisogno della sua giusta distanza. Una breve pausa, poi parleremo ancora di lì. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. E in un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Il cacciatore di libri. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Questo romanzo è in parte ispirato ad eventi reali accaduti il 23 marzo del 2008 a Weston, nel Wisconsin. Questa è la frase riportata in esergo al romanzo Uomini di poca fede dell'americano Nicholas Butler, che aveva raggiunto una certa notorietà anche in Italia con Il cuore degli uomini. In Uomini di poca fede, pubblicato da Marsilio con la traduzione di Fabio Cremonesi, si racconta la storia di una famiglia travolta dal fanatismo di una chiesa cristiana estremista nell'America rurale. Tutto gira intorno al piccolo Isaac, che ha 5 anni. Sua mamma, Shiloh, è una giovane donna piena di fragilità e insicurezze, frequenta una chiesa estremista e ha una relazione con Steven, il pastore di questa stessa chiesa, che convince lei e la comunità sul fatto che Isaac abbia poteri taumaturgici, insomma sia un guaritore. Il nonno di Isaac e padre adottivo di Shiloh è agnostico e cerca di proteggere il nipotino da questo fanatismo. Tutto, come dicevamo, è ispirato ad una storia vera, come ci racconta lo stesso Nicholas Butler. Yeah, so in 2008 there was an 11-year-old girl named Kara Newman. Nel 2008 una bambina di 11 anni, Karen Newman, morì per le complicanze del diabete perché i genitori pregavano per la sua salvezza anziché portarla in ospedale. La famiglia apparteneva a una chiesa estremista che opera vicino a dove abito io, e la cosa davvero terrificante era l'idea che questa ragazzina potesse pensare: ho fatto qualcosa di sbagliato, Dio non mi vuole bene e mi sta punendo con la morte per questo motivo. Così ho iniziato a fare un po' di ricerche sulle chiese estremiste in America, come questa, che curano con la fede, e ho scoperto che ci sono centinaia, forse migliaia di bambini che ogni anno muoiono o non vengono curati perché appartengono a queste chiese. Mi è sembrato un buon argomento su cui scrivere. E infatti in questo romanzo si fa riferimento ad una chiesa estremista, a un modo anche fanatico di vivere la fede, anche se invece poi contemporaneamente ci sono dei personaggi che sono completamente agnostici o comunque lontani dalla fede, dal credo. In tutto ciò sei riuscito a mantenere un certo equilibrio nella narrazione, cioè non c'è mai il giudizio nei confronti delle cose che accadono. Come sei riuscito a mantenere questo equilibrio? Good question. Well, part of my job as a novelist is to try to empathize with other people. Ottima domanda. Beh, parte del mio lavoro come romanziere consiste nel provare empatia nei confronti delle persone e capire chi sono e come sono diventati ciò che sono. E quindi, anche se non riesco minimamente a entrare in relazione con questo tipo di estremismo, e i personaggi possono sembrarmi folli e irresponsabili, quando ho iniziato le ricerche in questi gruppi, ho deciso che non avrei avuto un atteggiamento giudicante, perché volevo cercare di capire come funzionavano le menti di chi diventava vulnerabile a chiese di questo tipo. Ciò che è veramente universale nel personaggio di Lyle è che lui non ha risposte. Si muove in uno spettro di credenze completamente diverse, cercando di capire la sua stessa vita e cercando le risposte alle grandi domande: esiste il paradiso? Esiste una vita dopo la morte? Potrò rivedere le persone che ho perso? Esiste l'anima? E queste sono domande in cui qualunque lettore può identificarsi. Any reader is gonna find relatable. E infatti Lyle è uno dei personaggi centrali di questo romanzo. È un uomo, ha oltre 60 anni, è sposato con Peg. Hanno perso un bambino quando aveva neanche 9 mesi e poi hanno adottato una bambina, Shiloh, e questa ragazza ha avuto a sua volta un figlio, Isaac. È molto bello il rapporto che c'è fra il nonno Lyle e questo bambino Isaac di 5 anni. All'inizio del romanzo li vediamo quasi giocare a nascondino nel cimitero. Ecco, che tipo di relazione c'è fra loro due? Well, I think it's like a lot of magical relationships between grandparents and grandchildren. Beh, penso che sia come molte delle relazioni che si creano fra nonni e nipoti. Non c'è alcun tipo di pressione o responsabilità di dover mantenere certe regole, e quindi è tutto divertimento, piacere di stare insieme. Quando ho iniziato a pensare a come costruire il romanzo, ho capito che sarebbe stato interessante avere un personaggio come il nonno, che si trova a dover difendere il nipote dalla sua stessa figlia. Mi sembrava una dinamica originale, non trattata così spesso in letteratura. In questa storia, Lyle, che aveva perso un figlio di pochi mesi, vuole disperatamente stare vicino al nipote e proteggerlo. Desperate to stay close to this grandson and make sure he's safe. Lyle cerca di proteggere suo nipote perché la mamma del bambino, Shiloh, sostanzialmente anche influenzata appunto da questa fede estremista, influenzata dal suo compagno che è appunto un pastore di questa chiesa, iniziano a vedere in questo bambino una sorta di guaritore. E quindi questo ovviamente attira le attenzioni su questo bambino. Ecco, che cosa succede intorno ad Isaac? Che reazione ha Lyle? Che reazione ha sua madre nel momento in cui questo pastore sostiene che il bambino abbia poteri taumaturgici? Well, you know, as I said before, there's a cast of characters here that follow along a spectrum of belief. Come dicevo, c'è una serie di personaggi che rappresenta tutto lo spettro delle convinzioni religiose. Quindi, se Stephen o Shiloh rappresentano i fanatici legati a questa chiesa cristiana, Lyle, Peg e Ut rappresentano gli agnostici. Lo sforzo di Lyle è capire quali sono le sue stesse convinzioni, quale sia il perimetro della sua fede. Facendo le mie ricerche in questo ambito, ho scoperto che queste chiese fanno leva sulla paura. Quindi, per esempio, se ti ammali, è perché la tua fede o quella di qualche componente della tua famiglia non è abbastanza forte. Quello che Lyle capisce è che anche se non condivide minimamente le idee della figlia e di questa chiesa, deve assolutamente restare vicino a sua figlia e a suo nipote, altrimenti saranno risucchiati da questa chiesa. His daughter and his grandson will disappear into the fabric of that church. Queste forme estreme di fede sono spesso legate a persone che hanno una serie di fragilità. Infatti, all'inizio tu dicevi che Shiloh, per esempio, ha avuto comunque una vita problematica. È una persona che ha tante fragilità. Effettivamente, studiando questo contesto, ti sei reso conto che queste due cose vanno insieme, cioè debolezza, fragilità e fede estrema? Yeah, I do think so, absolutely. You know, it's really easy when you're looking at some of these extremist churches to. Sì, ma è così, assolutamente. È facile quando osservi queste grandi chiese pensare al fatto che sono grandi, grandi gruppi, grandi organizzazioni, e si dimentica che i grandi gruppi sono formati da singoli individui. Così, quando ho iniziato a pensare a come costruire il personaggio di Shiloh, per renderla autentica, l'ho immaginata con due genitori fantastici, ma è stato fondamentale immaginare che fosse stata adottata. Quando lei scopre le origini della sua famiglia e vuole incontrare la sua mamma biologica, si avvicina alla sua storia senza mai coglierne tutta la portata. Poi la madre muore e Shiloh è completamente persa. In quanto scrittore, il mio dovere è di provare empatia verso i personaggi anche quando non condivido assolutamente le loro idee. Quindi ho ripensato a fatti realmente accaduti e mi sono davvero chiesto come fosse possibile che due genitori potessero ritenere una buona idea quella di pregare per la salvezza di un bambino anziché portarlo in ospedale. E questo era Nicholas Butler che ci ha parlato di Uomini di poca fede, pubblicato da Marsilio. Per la traduzione si ringrazia Sonia Folin. Reach out and touch me. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Sara Rattaro su La giusta distanza, Nicholas Butler, Uomini di poca fede. Musiche, Costruire di Niccolò Fabi, Personal Jesus nella versione di Johnny Cash. In regia Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete potete anche seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il, ma anche su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.